Andi in casa il telefono. Lascia vedere. Te l'ho attaccato all'arringo. Aspetto che mi colto la vita, cazzo. Vai, fai. Ehi, ehi, recuperatela. Tutto, mi chiudo questa radio, se mi dai 10 minuti, poi te richiamo, ok? Hola! Aspetta, che chiudo questa radio e poi te richiamo. E non ti preoccupare, non ti preoccupare, qua. Sì, ci mancherebbe. Ehi, avanti! Attenzione, popolino, popolino! Avanti Gianni, buonasera! Cazzo, col portatile! Ehi, sono col portatile! Sogniamo oggi! No, non lo sapevo che si fa così. Esce bene, esce bene. Gli ho detto anch'io. Già, che radio stai usando? Quella di prima? No, sto usando il Galaxy adesso. Già va bene. L'hai messo a posto? Sì, sì. Bella! Sì, sì, messo a posto, messo a posto. Va bene, meglio così, dai. Mi stavo già al tè perché mi hai detto che uscivo male. Scusami, perdonami, non me ne ero accorto, non avevo ancora fatto le prove, capito? No, è venuto qua, ma l'ha tarata lui e se n'è andato adesso, a posto. Prova a vedere adesso come va. Ma fa bene l'aria, 9:20 Antonio. Ma tu lo sai che quel portatile, ma ne avevo già parlato con Gianni, quel portatile c'ha la radio migliore del baracchino che usi tu. Ma veramente? Veramente? No, veramente no. Mi dica Gianni a vedere, sto seguendo io, non dico Vauri, c'ha una bellissima radio, è molto più forte la radio, è molto più chiara rispetto all'altra tua. Esce bene a tu, esce bene. Capa, poi ha giù collegato una sagosa, ha giù collegato una cannonata. Quante volte l'ha già quella radio? Quante volte l'ha quella radio già? Allora, mi pare che con le servite sia 40 watt. 40 watt? Quindi non stai usando lineare, Antonio? No, già, l'ho misurato poco fa, ne dà 10. Ne dà massimo all'incirca quasi 10, l'ho misurato io poco fa. Ma come la mi rivela? Guarda che cosa c'è scritto nel display. Ma vengo da mi rivela qua. Via, forza coraggio, ora funziona. Andare, se più scasso sono io qua, boh, e vabbè, dimmi bilisti che sono Ugo, la giamba aristocrate. Ma aristocrate è forte, aristocratico di Vascepparo. Occhio che se mi dice l'intenna, la roba di svella. Quello degli anni 80 mi l'avevi io, diciamo. Ah? Negli anni 80, 70-80 ce l'avevo io, il giamba aristocrate. Anche io ho la pedisvella del Galilli negli anni 80. Ah, comunque già va bene, dai. È una gannonata, Davvero? Va bene, dai, l'interesse che si contenta. Ma chi è che ha detto davvero? Davvero? Poi, Daniele, buonasera. Buonasera a tutti. Tanto ora nella motocicletta lì, adesso nella motocicletta metti l'antenna. Ehi, sono un piballe. Adesso aspettiamo un po' di tempo, non può mettere l'antenna, no? Ma vuole? Adesso devo aspettare un po', poi vediamo. Sai cosa fai? Ti do una magnetica io. tira fuori e dopo ti raccavi che andrò dopo. Adesso vediamo, dai. Perché poi con chi si bombole, per poco tempo, beh. Quello che è vero, Ma me l'ascolto qua, quando vado a spostare ti ascolto. Lo so. Oh, Claudio! Nara! Dentotela! Tua figlia sono passato a bermi un caffè. Mi ho bevuto un bitter oggi, ero in quella zona e sono passato. Già me l'ha detto. Adesso Fabio ha ragione, perché poi ero in fretta stamattina, mi sono fermato anche stamattina a prendermi il... a farmi la colazione. Cazzo, già va giù ragione che travaglia lo siciliano, ya. No, il siciliano... cosa stai dicendo? mezzo. Sì, già lo conosci un anno e due. Sì, vabbè, sono nato in Sicilia, è una vita qua, sposato qua, abita qua già da tanti anni. Sì, lo so, io lo conosco tanti anni, li conosco. E conosco anche il padre, conosco la madre, tutti li conosco. Perché io lì gliele portavo anche la, al coso, a quel coso che fanno d'estate lì, alla moglie. E poi quando c'era il bar in via Tempio, ci conosciamo un sacco di anni. Vabbè dai, io vi lascio, vi saluto, ripeto la portata, che non l'ho potuto giudare. Ciao già, ciao. Sì, a cappa. Ciao Gianni. Sì, a... Chi è che vuole entrare? Perché c'era anche Daniele, era. Chi era? Daniele, tu sei? Chi mi è presente? Cazzo, vi sento tutti il cazzo male, vi sento con questa radio, cazzo. Tutti rimbombanti siete, cazzo. Sai che radio è, cla? Questa, questa non è il decametrico. Mi abbiamo fatto la centratura adesso, però la modulazione in M non mi piace. Sì, un poco così, No, la trasmissione no, la trasmissione è bella, ricezione. Siete un po' tutti troppo rimbombanti, mi. Avanti, Daniele. Guarda a me, cla, anch'io rimbombante sono. E tu sei ben prendi. No, io sono liscio, io sto andando due fatti. Ehi, già va bene. Già va bene, già va bene. Se vuoi posso rivedere la radio. No, lascia stare così, già va bene, fatti. Cava, cava. Poi c'è rimasto qua. Pongo lì. Ehi, dimmi. E allora, che si dice da quelle parti? Sì, che vuoi che si dica? Vogliamo... E niente, ha detto... Adesso che scendi con un portatile, mi. Pedivella! Mia piribì! Ebbè, pedivella! So, Intec 520 Plus! Già va bene, a voglia. Sembri... non si vede neanche la differenza, a parte la radio, ma... Già va bene. Perché è brutta o bella la radio? Questa è migliore, Antù. Vabbè, quella va a pompa. Ma no, cla. Ma c'è che faccio, cazzo, tutti gli MC60 a mezzo alle balle non ci ho più capito nulla. Ho schiacciato quello che era spento. Cos'hai detto, Daniele? Ho detto che è bella la radio di Antonio per essere un portatile. Meglio dell'altra, Molto, molto meglio. Ma te l'ho già detto. È bella, Antonio. Via, ci sei. Luca è sparito. Non è bene, mi sta ascoltando in radio. Un bambò secla, va più che bene. Non c'è valore per vedete quanto è bella. Bianco per me. Cosa Antonio? Ma mi Antonio che stai uscendo bene a vero in questa radio. Lo so, bianco per me un attimino. Ehi Anto, fai. Cicla, vai benissimo, una bomba. Un beccametto, però già va bene, funziona molto bene. Ecco, le modulazioni rimbombano troppo, adesso devo vedere, o è la colonia. Può anche essere, cla. Può anche essere, così è una rottura di scatole quando non ascolti bene, È una rottura di scatole, sì. Vabbè, c'è mica il luce. Cava, magari con una cassa esterna migliora. Mi lo sto mettendo adesso. Cava. Prova a parlare. Guarda adesso, cla, 1, 2, 3, 4, 5, come mi ascolti? Adesso ti ascolto bene, è l'altro parlante, lo vedo, non è niente di grave. Cappa. Meglio così allora, e se no guai, cavolo. Allora. Già pompa. 9.30, 6, 4, a voglia. Sì, già viaggia. Ciao, mi rifatti, ciao. È una versione vecchia da 200 watt, però io la sto, ne sto dando neanche 100, dai. Cava, ottimo per la truppa. Non hai già venduto 4 di radio, Daniele, non ti metti a ridere, 4, 2 HF e 2 VU base, e ne ho già preso altre 3, c'è una cosa che non viene bene a dire. Vabbè, hai fatto il rinascere con altre radio, vabbè. Già va bene, già va bene. Sì, ma cazzo, non devo comprare, non devo comprare, è una malattia, cazzo, è una malattia, non c'è niente da fare. Vendo e compro, vero? Mi ho promesso, non compro più niente, non compro più niente. Commenti li leggo che mi piacciono, poi queste linee sono spettacolari, questo è un 102 DM, capito? 102 della Iaeso, è una favola, solo a vederlo, solo a vederlo. Cava, cava, va bene, dai. Dopo giro lo fa corsa. Riesci a biaccurali. Ci fa una volta solo, dai. No, a me era giusto per cambiare, c'erano troppi doppi, troppe radio doppie, tutti uguali, basta, giusto, boh, mi sono fatto la base. Già va bene, già va bene. Io come al modo faccio sempre quell'operazione, devo fare, qua. E prima o poi ci devo riuscire. Quella del K. E si conferma. Sì, cazzo, guarda, lascia perdere. A dire... una telefonata, qua, ti serve una T250, boh, sapendo io c'ho i cable, cazzo, nulla, dai, venduto tutto così, io sto cercando, sono disperato, cazzo, se trovo la T250 completo la linea al 140, perché c'ho, avevo un PS50 che non stava funzionando, l'ho fatto mettere a posto, quindi c'ho il 140, il PS50, l'SP430 e mi manca la T250, mentre invece dall'altra parte c'ho il 430 con il PS430 e l'SP430, capito? Avendo la T250 lo metti in mezzo e si appicca, invece direi venduto, venduto, regalato, vai! Tutto a blocco dato! Tutto a blocco, cavolo, 500 euro me l'avevo fatto, mica! 500 euro, l'ho già fatto, 350 euro la radio, cioè, ci hai rimesso? Quanto l'hai venduto? 150 euro l'hai venduto. Ho fatto a blocca, l'ho fatto, ah. Un amico mio. Ma un amico tuo, Franco? No. Giù ad Alghero, no, abita ad Alghero, vicino a Fertilia, e poi non stai neanche più entrando. Ah, Mirko, te lo ricordi? Mirko c'era la T250. E poco va a giro il telefono, ragazzi. Hai fatto bene a Bimo. Adesso le faccio un'offerta di quelle strepitose, vale, me lo prendo. Ma non sai che l'ho detto anch'io, gli avevo rifatto l'offerta a capo, gli avevo pure di più, se mi dava tutto quanto. No, ma a me non mi interessa tutto quanto, a me interessa anche 250, perché non ce n'è, capito? Ce n'era uno, abbiamo parlato con Luca e se l'ha venduto, c'era una linea completa da favola a regalo praticamente, e se l'ha venduta, capito? Quindi niente. Vabbè, comunque già lo trovo, avvedici ragazzo. Sicuramente te lo dà, che poi è abito al Medo. E poi tra una cosa e l'altra, perché lui era sempre innamorato, ha detto già che me lo vendo, mi salto il kibitz e vedo tutta la linea, già ti chiamo, gli ho detto. Già ce l'ho il numero di telefono. Le faccio l'offerta, se me lo va, glielo prendo subito anche domani mattina. Cava, cava. E poi sono arrivato senza io. Bambolino, bambolino. Eccomi qua. Ehi, cazzo con Gigetto, già andavo. Alza pompa, mi. Ehi, Daniele. Ehi, a bambolino. E quindi, mi stavi narrando? Cazzo che non agganno nada, questa cosa, Ce l'ho con la ringo attaccata. Quanto ti arriva, fondo scala? No, a fondo scala, ma già è ultimo per la truppa. Capa, che va lo smitterzoggio, vai. Vabbè. Già va bene, già fungi. No, sono contento, la verità, però qualche volta lo utilizzo pure questo. Cioè, vabbè, ho utilizzato le altre, però mi sono fatto l'attacco e lo utilizzo, l'ho attaccato al switching di alimentatore. Non tocca sia tu, lascia tutto com'è. Infatti non so che c'è, adesso ho cambiato radio, com'è questa, uguale all'altra? Questa sembra più squillante, Cla. Più squillante, no? Vabbè, i microfoni sono uguali, la radio cambia. Sembra, dovresti abbassare forse un pelino in confronto all'altra, però va bene, ha voglia. No, vabbè, questa è più forte, questa è 140, questa la metà è sotto la I, ho cercato Michi, ti ricordo, è sotto la I, quindi va bene, no vabbè, l'altra è un altro tipo di radio, anche perché c'è lo stadio finale diverso, capito, però non è male, no, funziona bene. No, tanto di cappello, cla, niente da dire, niente da dire, soltanto che la differenza, questa è più squillante, l'altra è un pelino meno squillante, ma è poca differenza. E glielo regoliamo, vedi, glielo regoliamo, ancora c'ho un po' di voglia, glielo regoliamo. Cava, cava, per dire, per ascoltarti con questa radio ho dovuto abbassare il volume, perché avevo impostato con l'altra e sentivo tutti bene. Invece come parli tu devo abbassare il volume. Perché sono prepotente. Riprendi, bambolì. Ehi, che ha fatto un attimo il cellulare Ruzzi, no? Che ho fatto una foto, Cazzo che bello che è. Hai fatto la foto e la pubblichi? Non ce la mandi? Già te la mando già. Oh no, Clarice, che bello, che bello, buh. Che bello, cazzo, però non manda mai nulla. Infatti direi che ti abbottate. No, già lo conosco io, Arturo. Lo conoscevo prima di averlo titolato. L'avevo già visto, trovato, non c'è problema. Cappa, guarda nel coso, guarda. Qua lo conosco. A Daniele fallo vedere. Sì, adesso gli mando la foto. Cava. Io qua devo sistemare tutto, che ho fatto un soppalco che è un casino, tutta a destra, a sinistra, oi. Ok, mi illumi, avanti da domando, beh, te l'ho mandato su cosa perché non ce l'ho sul tuo numero di telefono. E non l'avrei mandato su Messenger. Eia! Adesso scendo a vederla, aspetta un attimo, che prendo il telefono e ce l'ho giù. Ah, pure tu vai zona notte, zona giorno, così è. No, io mi sono fatto un soppalco e quindi devo scendere giù perché sono in alto. Cappa. Oi. Ma Roger Bibi c'ha questa radio, no? E cosa siete facendo? Eia, non è a Roger Bibi o... Oh, cla. No, non ce n'è Roger Bip, perché? Pensavo che c'aveva Roger Bip. No, non ce n'è, no. Lo spezzone lungo, gliel'ho attaccato. E va che una cannonata. Certo, me l'ho conservato. Ma ho preso la GBC. E mi è tornato utile. Ascolta, ma non c'è, Daniele, è andato via. È andato un attimino giù a prendere il coso, cla. A prendere il... Ma... Come cazzo si chiama il cellulare? Cioè, devo regolare il microfono, a vedere se spinge di più rispetto all'altra, perché a me quando mi dicono così mi viene subito il succubitis. Se lo sa, perché c'è mica il motivo sulla risposta variabile. Intanto questa dal manuale dice Mickey, quindi dovrebbe essere questa. Lasciami. Guarda un po', da questo passaggio, 1, 2, 3, 4, 5, a questo passaggio, cosa è cambiato? Mi pare niente. Non è cambiato niente? Cioè da così, allora, era così, 1, 2, 3, 4, questo è il primo passaggio. A quest'altro passaggio non è cambiato niente? No, io non sento nessuna differenza. Che strano, cazzo. Allora è al massimo, no, non va di più. La gente mi bongo la guffia. Mi bongo la bappallina, vedi se ciamba. Se prova a punirti la guffia. Ah, vero. Anto, ma dove l'hai mandato questa foto? Daniele. Ehi, acqua, prova. Aspetta, mi metto le cuffie, Daniele, perché sennò non riesco, c'ho troppo rientro. Ho troppo rientro, aspetta, Allora, ecco qua, atteniamo, ecco qua. Allora, stavo dicendo, così dovrebbe essere tutto al massimo. Mentre poco fa era così, guarda, ecco. Così era poco fa. Quindi da questo passaggio, 1, 2, 3, 4, a quest'altro passaggio cambia qualcosa? Leggermente cicla. Leggermente, no? Quindi va meglio, lo posso lasciare anche così allora. Cappa, ti ho aumentato di volume, per ascoltarti meglio e la differenza si nota. Va meglio così, Cla. Peccappa. Dai, bianco un attimino, io riprendo riprendo fra un pochettino che sono un attimino indaffarato, ok? Ehi, hey, va benissimo, dai, va bene, ok. Allora lascio stare così, Daniele. Va bene comunque, come tonalità, come tutto, e spinge così. Spinge, spinge qua, spinge. Questo è il tono di radio che piace a me. Ok, abbiamo fatto solo una leggera regolazione, già va bene. Tieni conto che c'è un abbinamento, Yaesu Pinwoder, dove sto usando l'MC60 con l'adattatore, ok? Cava, cava. Va benissimo qua, va più che bene, si sente anche lo stacco. Eh beh, quello si deve sentire, se no le curatore su pezzo il microfono. Ui ui ui. Tutto il giorno sono attaccato a questa radio. C'era delle cosettine da fare, vabbè le ho fatte, niente di particolare, però già adesso già risponde bene, dai. Va bene qua, va più che bene, ottimo. Non tocca se più nulla. No, non sto toccando niente, tranquillo che no. Io una volta che faccio le mie regolazioni, no, non sto lì a girarmi le birbirizze. Cava. Va bene, ok qua, dai, adesso vi devo lasciare che sta arrivando un mio ex collega ormai faccio parte degli ex. Ci aggiorniamo alle prossime. Ciao Daniele, dai un abbraccio grande a mamma, un abbraccio a te, a moglie, figli e a tutti, ok? Poi con calma già ci vediamo, va? Capiterà l'occasione. Ciao Daniele, buona cena, buon tutto, grazie dei controlli. Ok, Claudio, contraccambia anche tu al tuo QRA. E un saluto anche a Bombolino se mi ascolta, dai, ci ascoltiamo alle prossime, dai, ciao ragazzi, buon proseguimento e buon tutto. Ciao Daniele, alle prossime. Dai, bianco per me, là, che va a farmi la doccia. Ehi, anche vai tranquillo, già sono qua, sto finendo di fare questa cosa. Papà, cazzo c'è quel sistema che rimane tipo un PMR, che non si intende nulla. Cioè, quando è non si sente e va benissimo, cazzo. Funziona più benissimo, cazzo, che rubare. Vai, Nora Amara. Ma quello non portate le serie, mio amico, non è una gaggata, eh? Lo so che non è una gaggata, è serio sì. Quello è un signor portatile, capito? Anche perché chi l'ha dato a lui è uno che apprezza le cose serie. Sì, no, è buonissimo, qua, sono contento, la verità. Va bene, anch'io sono contento che tu sei contento, cappa. Cappa, infatti lo userò spesso. E qua non è un problema, lo userò spesso, che va una cannonata, ho attaccato all'alimentatore switching, grazie, fa anche una cannonata. Una cannonata sì, va bene, dai, ci aggiorniamo dopo allora, tanto se coincide, dai, ciao. Ok, cra, dai, va benissimo, dai, ci sentiamo dopo. Ciao. Non c'è nessuno qua, adesso arrivo a casa, faccio due chiacchiere, mi sa non con nessuno. No, sono andati Giannata a portare il cane, Bombolino a farsi la doccia. Sì, sono andato a farmi la doccia, dai, ci sentiamo dopo. Guarda a te, cazzo con me ci non mi dà qui. Cazzo, ne avviaggo di guro. No, proprio che ci mi lasciano la parte. Fammi la doccia, sono con un mese, tondo, la voce. Che schifo. Tu che schifo, ecco. Tu cazzo che schifo, boh. Cazzo, da voi entra lo viaggio di Luguro, entra. Va bene, dai, che vado. Ciao, Antonio. Alle prossimine. Siamo di Medivella a me. Va bene, bella. Siamo tirati un po' un mese, siamo di Medivella, allora. È un casino, ecco là. Casino, ci metto questo qua così. Non ci prende. Oh, rispondendo a Marina, ma da casa, sono bugiato di vito. Stavo rispondendo a Marina, ho detto, mi ha scritto a casa. E io gli ho scritto che sono. Cioè, ma ha scritto entrambi, io ho scritto no, a casa. Io stavo regolando questo microfono, sembra che vada bene. Ascolto benissimo, Cla. Bene, mi ascolti? Benissimo. Ehi, tu sei un buon amplificato. Ehi, via, grazie. Andare. Se va a sentire. Ah, già dico, mi andiamo a mangiare. Se ci sei, ci aggiorniamo dopo. Va bene? Sì, a fare il fare, ho già cenato. A dopo, va bene. Gappa. Ma è femme, ne hai tu, Lu? Qua, sì. No, ma ce ne femme per come ti sento, come mi senti. Vedete che sono state PC, ti è femme, ti grazie, aspetta. Idrico, tutte le cose pozzette, raccolte acque bianche, insomma, cioè... c'è. Sì, l'importante ci sia, è meglio che ammazzare un ticket da Rocchi. Stiamo svoltando via San Francesco a casa e portando tutto via Livorno, gli uffici. Sono 3 giorni a pastiglia per il mal di schiena, se la matta ne va, è dare da Rocchi. Sta a casa in famiglia, ci arriva a San Francesco, l'ho vista anche a volte, e i mobili che ci sono nella rovetto, i mobili che ci sono lì nella dipendenza, lì, quelli altri tutti, io sono tutti in via San Francesco qui, tutti, quella vetrina dove c'è la radio, dove c'è la roba, il tavolo, tutto. Sì, già lo so. È venuto a vederla, bellissima quella casa, perché non c'è ascensore. Casotto, no, vabbè, qua mi piace più la terra a me. È vicino a me, se vuoi fare adoro ci dobbiamo. Ma per tante cose, come qualità di spesa, di parcheggio, di tutto, dove arrivo, scendo, sono già a casa. La spesa è lo stesso, apro il cofano e ce l'hai qua. Non devi stare a fare scarette oppure ascensori. No, vabbè, io secondo me trovo molto bene, ti. Avevo i problemi, la paranoia per i cavi, però ho risolto, tutto a posto. Non io trovo il parcheggio, io ne ho 2 parcheggi. Questi auto ne ho 2, non ci vedete, con tutto già lo sai, non ci bisogna dire niente. Però meno difficoltà, capito? Perché tante volte c'è Raccone che sta facendo manutenzione, che dovrebbe aspettare a salirci la spesa quando finivano di fare manutenzione all'ascensore. Invece così non c'è problema, 2 piani me li faccio a piedi, non me ne affrutti niente. Ha fatto. Già, vabbè. Va bene. Mio padrino, l'hai visto, come sta? Sta bene, non so quanto da lui, dai, ciao. Ma dice che c'ha il Covid, non è vero? Sì, passato, finito. Va bene. Tanto Marco l'altro giorno con il 10 a farci due chiacchiere in macchina, mi ha fatto piacere. Ma a Marco l'ho chiamato un po' di tempo fa, per dire la verità, poi non si è fatto più sentire, comunque, già siamo qua. Ehi, ecco, sono rientrato, buonasera. Ehi, accianto. Vabbè, ragazzi, sono entrato perché ti ho sentito, stavo facendo una cosa al computer, sto scrivendo un'email, ma devo terminare, se coincide più tardi, ok? Ehi, a te, grazie del controllo, mi hai tolto un problema, sì, anch'io vado a mangiare, sono quasi da 9, cazzo, non me l'ho manco accorto, cioè così tutta la lista è andata dritta in nobile. Ciao, buona cena, saluti a casa a te. Anto, ci sentiamo dopo, vado a cenare. Ok, dai, ci sentiamo dopo, non c'è problema. Fate. Ciao. Bella è questa radio T. Bellissima, va bene. È un portatile. Già, va bene, ti ho ascoltato anche tu, Carti, già va bene. C'era anche Daniele, se non mi sbaglio. Sì, c'era anche Daniele. Quando ti sto arrivando lì in campagna? Aspetta un attimino che avevo attenuato, provo a vedere. 1, 2, 3, prova radio. Quasi 9:15. Già va bene, dai. Sì, ho voglia. Kappa. Oia. No, già, lo sto constatando, già è semplice dubbio che questo tipo di apparecchio, perché ce l'ha avuto, ce l'ha anche mio padre, ce l'ha, è una gannunata. Va quanto vai, sono finisco, dai, a più tardi, ciao. Ciao a tutti e due a dopo. Ehi, Luca! Ehi, Anto, aspetta, anch'io sto facendo un cavo, il cavettino per l'altro apparecchio, un attimo, riprendo subito. Ehi, cappa, vai, non c'è problema. Ola, la Coca-Cola. Cambio positivo. Bombolino ci sei, attenzione Bombolino, attenzione Antonio Bombolino, se tu ascolti Luca qua, cambia, attenzione Bombolino, Bomboletta, cambia. calcolata. Attenzione, bombolino, bombolino, se tu ascolti Luca qua, cambio, cambio. Avanti, avanti, chi è? Luca Cattarella. Vabbè, già mangiato. Già un'ora che ho mangiato. Bene, anch'io. Chiappa. Poco fame. Un bel di gigioni. Ho mangiato carociofi con le patate stanotte. Vogliamo, non mi baglia. No, noi abbiamo mangiato... Sara ha fatto i cose, ha fatto gli gnocchi, ha fatto. Ieri ho cucinato io, ho fatto una bella spaghettata alla doc proprio. Alla doc? Bene, bene. Sai che a me piace tanto cucinare tu, però bisogna stare attenti col mangiare, sennò guai. Cappa. Pure a me, cioè, pure a me piace molto cucinare. E quando sono a casa già cucino, quando cucina lei. Quando sono a casa cucino io. Già va bene. Pensiero, dimenti, cazzo. Per carità. Papà, esci il piglio cuscino. Anch'io nella poltroncina c'ho cuscino per la schiena, sennò è un casino. Papà, a questa distanza dovrebbe andare bene, sì. Sì, che va bene. Poi la voglia. Scappa. Dimmi, stasera uso questa, che è una gannonata. A me non lo faccio andare, lo faccio. Un bocchettino. C'è una bella modulazione anche, veramente. Una bellissima radio. Bella, pimpante. Capito? Bella, corretta, va bene. Cappa. Dimmi, aggiù collegato i viri anche dall'alimentatore switching. Perché... se non devo mettere le banane, è un casino, invece attaccato in kiwi e va che una gannonata va. Poi con 747 già pompa ya. Pompa, ma lo sapevo che era così, perché pure noi ce l'avevamo e andava un bel. Buonasera. Ma stavo chiamando. Cerco il capo in corto, dai. Una spezzone che va da capo di discesa al baracchino. Capo, cosa mi rasurci le pigliando? Cosa? Per un capo. In corto era, tanto, 58. Non va bene, capito. Lo so, quei capi. Quei capi è un casino, Ollu. È un casino perché hanno un brutto vizio, hanno. Stavo chiamando poco fa. A me stavi chiamando. Contandovi. Forse stavo facendo roba. Mi ha chiamato una ventina di volte, ha detto come metti giù. Non lo so, forse ero giù che stavo mettendo la lavatrice a fare, perché domani manca l'acqua. Io mi ce l'ho fatto oggi, 10 magliette. Vai tu. Ma non c'ho magliette che poi manco uso, che fa. Ma quella che usiamo, quella cosa? Non riesco a comprendere una vincia. Devo togliere l'NB1, l'NB2, l'NB11, tutto una serie di bugare. Non mi capisci, ma così? No, con l'altra sì, quella stavo usando poco fa, più troppo sensibile. Quella è un po' abbassato, di più lo posso abbassare. Aspetta, vedere che è comodo, se ti capisco con l'altra. Quella è un po', l'ho abbassato un po', no. Adesso lascio così. Già va bene, già. Positivo. Sì, adesso già ti capisco. Se invece aumenti a me non ti comprendo, con questa non ti capisco. No, già l'ho abbassato. al passato. Mi sto facendo orario a fare la puntura a mamma. Io la fotte di dici com'era? Cambio radio, immagino problemi, non so, nulla fastidio. Perché quella là è troppo sensibile, il filtro, ho capito. E quindi stringe troppo, non ti capisco. Invece con l'altra sì. Avanti il break, chi è? Chi è il break? No, non ho sentito nessuno, lui. Cosa? Ho detto che sentivo un break sotto di te. Si fa da sotto, si vuole fare da sopra. Avanti chi vuole entrare sul canale 10. Ma c'è qualcuno che sta parlando? Io non sento nessuno. Io tanto meno. Ma manco io, come faccio da qualcuno che stava breccando? Tengo nessuno in occhi. Manco io, assolutamente. Che appagappa. Cazzo, amazzano. Abri al lutto. Uiuiui. Abri al lutto, cioè? Alle 8 apro domani, ma devo aprire io. Niente, basta per il cacchettetto. Lo so. Ma dite che fazzi è, babazzi, vero è? Sì, ha dato acqua. Non so se da domani o da dopo domani. Da domani, giramento di balle. Fatto, ma non è pregiudizio per fare questo lavoro. Lo so. D'estate no, non c'è lavoro. D'estate calmo, beh. E con il freddo che lavorate voi, perché portate le bombole per le stufe, per il... vabbè, le vedete comunque anche per le stufe, ma le caldaie a gas. Non più come una volta, no. Più stufe a gas, più bombole piccole. Prima vendevamo anche 20-30 bomboloni al giorno. Ne arrivi a casa, era una prima cucina di gaga. Adesso no, non è più così, adesso no, tutta quella roba non c'è. Prima era un po' tutto. Beh, come posso immaginare? Beh, lo posso immaginare, lo so, lavoro un po' pesantuccio. Pesante. Vabbè, dai. Alla fine sono dei carralli. Il lavoro che stavo facendo io, mamma mia, ti diverte, da una parte ti diverte, ma è molto pesante fare prati sintetici, tu. Cioè, le ore le conti veramente, anche 10, 12, 13. Ma forse non lo so, se è pagato bene, ok, però le bombole ti massacrano, qua. Te lo dico per esperienza, poi vabbè, io perché ho iniziato da ragazzino, però ti sei bideggia, niente, te lo sto dicendo, se non sei abituato ti crepano, ti cudi a terra. Vabbè, questo tipo di lavoro ti porta a Cagliari, a Oristano, a Ponte di Casino, ti va a stare presto, no a lutto, no, a Risincu, se che mezzo ci sei a partenti? Vabbè, travaglio. È pesante, perché poi c'è la carra sabbia. Prima cosa è pulire il pezzo, se da spogliare, se ci sono pietre bisogna rastrellare bene, e poi carra sabbia. Una volta che è appurata la sabbia, dipende dai metri quadri, anche 200 metri quadri, 180, poi vuole tutta rullata, poi ci vuole questo telo antivegetativo per non far crescere l'erba, inchiodato bene. Poi bisogna prendere le misure, tagliare il tappeto, inchiodarlo, e via. Cappa. Ma non lo stai facendo più? No. No, non... Mi ha detto se mi assume, fa assicurato. E ti ha detto di no? No, perché lui voleva uno pratico anche a stendere il prato, tagliarlo, capito? Non lo sai fare, cicozzi. Mica rimpari così, Non impari da Luigi all'indomani. È come se io ti dico, via, come a riparare il computer, tu lo sai fare, no? Da cazzo di gioco, non ha già mai conto computer. Dovrai fare un po' di cose, di esperienza, no? Con tutte le cose. Normale. È normalissimo. Oh no, claro, è così. In definitiva, sì. E che si usi bacio? No, sto uscendo. Sì, Santiago Otto, sì. Santiago Otto. Ora, mazza, ne rivali. Ecco che è successo. Ho commutato al baracchino, aspetta. In effetti un po' bassino. Tanto è divertente l'estate, poi giri un po' dappertutto. Ti fai amici, giri, fai. È normale. No, vabbè, no, non è che fai amici, è che fai... Da San Teodoro a Olbia, da Olbia lì è quella zona lì, a Sacchena, insomma, tutto quella zona lì. Poi vabbè, scende a Cagliari, a Oristano, a Nuoro, tutti i lucchi. È bello, dai. Sempre Santiagotto, insomma. Sì, vabbè, lo seguite un po' che è morto, ma la radio bassa c'è, là. La radio bassa? Allora, prova. Cazzo là, questo commutatore è una merda, che... No, ho commutato la scrivania da una base all'altra. Stava andando bene, Diciamo che va bene la radio, non è che non va bene, però non è forte. Non è come sempre, e allora c'è qualche problema nel commutatore, là. Se no è tornato sul cazzo di spezzone. Mi pare di sì, a me, commenta denti di... Lo spezzone di nuovo, là. Vabbè, commuto, là. Non ha giocato nel Samatana, me lo sai bene. Quello spezzone vuole sostituito. Ma Giovanni, ma te l'hanno rubato, beh. Cappa. Ma come ti mai che ci spezzone noi esci in ive? Non andiamo male, andiamo un cassetto pieno di spezzoni. Non lo so. Evidentemente sono spezzoni vecchi e li devo tutti buttare via. Adesso domani lo cambio, ne metto un altro nuovo. Perché stava andando bene, solo che ho messo il commutatore. Quando era diretto andava bene, adesso ho messo il commutatore d'antenna, che tra l'altro è anche buono, che mi commuta da una scrivania all'altra, praticamente da questa radio qua, da quelle ai baracchini vintage, capito? Giusto per farli andare, per accenderli ogni tanto, per fare due chiacchiere. E invece vedi, non stava andando. Domani lo controllo, la nonna Giovanna. Me ne avevi dato due, cazzo, ce l'ho 10 anni, ce li ho quasi. No, non mi hanno mai dato problemi. Insomma, quando iniziano, io ne ho un mare, magari è capitati due buoni, ne ho un mare, ma questi sono lunghi, questi sono da 4 metri, sono due spezzoni da 4 metri per commutare i baracchini, capito? Quindi parlarsi pure che ci sia qualche problema, o è il commutatore. Non lo so perché. No, ma è che spezzone sicuramente gli rende gli yo-yo. Mi sembra improbabile, boh. Io adesso ne ho uno lungo, ne ho. Cazzo, ma ce l'ho. Ne ho preso la GBC, l'avevo preso 5-6 anni fa. Già fatti. Ma funziona sempre, l'ho attaccato e va bene. Infatti. Dipende. Non so, mi è tornato utile adesso. Ma ho notato una cosa, Clag, no, cioè lo spezzone glielo puoi fare quanto vuoi, non è che le misure non è che comportino molto, ho notato. Ecco, spostata questa qua. Aspetta, ma ci ti sento meglio? Allora, un po'. Ora, prova Claudio, prova. Aspetta, ci vediamo un altro commuta. Sì, dai, io ti lo parlo, commuta. Commuta. Già ti sento bene con questo. Sembra sentito anche la motopompa. Aspetta! Vabbè, aperto. Attacco che bene dopo 2 minuti. Motopompa, buonasera! Beh, aspetta 2 secondi che attacco il termine 9. Se ne vado subito, se funziona naturalmente. Aspetta! Tutto un passaggio, sì, Antonio. Attacca l'altra radio, io. Cosa hai detto? Come cubacio la radio? Non è passato, non è possibile. Antonio, posso vedere, io ti sento male. Sei tutto impazzato, cazzo. Cosa non ti dica? L'altra era molto più bella, quella che ti ha bisogno l'altro giorno. fa, se due minuti, se fa cadere l'altro, due minuti. Fazzi, aspetta, aspetta. Aspetta, pompetta. Ti muovi in allievo, chi è chi? Ehi, aia. Allora, sotto la fine della cosa, chiudi qua, tocchi di tutto. E avviati. Ma quando lo porti lo televisore? Prive. Io, Luca, se tu qua, ma non mi hai questo, cazzo, mi ha rotto la balla, se qua, non voglio far mettere a posto, non ho rotto le palle, ma a me non è manco uno. Cazzo, qua, ma ce l'ho tra i due dati, io dati. E ho dato la porta, ma a me tu hai detto non mi interessano, in una via 4, là. E dove vorrei, c'avevo mezzo in piedi. Cioè, mi è rimasto 32 che è lo smart, quello lo tengo io. Vabbè, a parte quello lì c'è anche una striscetta che c'è nel display. Cioè, non ci metti l'occhio, non si vede. Se ci metti l'occhio bene, bene si vede, ma non mi dà fastidio, lo guardo tranquillamente. Vabbè, sai perché stava funzionando questo, non mi interessa, ho fatto male, cazzo. Guarda anche una lucca, sleeper, bello, porca puttana, eh. E vabbè, vediamo, aspettiamo, se ne trovi qualcuno, se no la chiamo proprio questo, lo so che ti dica. Ecco, va a trovare qualcuno adesso. Poi c'ho un altro smart 40 che quello lì c'ha il pannello danneggiato. Sto aspettando che mi rientri qualche pannello, usi lo sistema. Peccato perché è nuovo, nuovo. Vabbè, poi c'è un Saba, quello accende, esce questa scritta inizializzazione, però non fa. Dice, a quanto pare è un istantaneo che ci vuole, bisogna aggiornare il software, ma non me la futti nuda, non la aggiorna proprio nuda. Vediamo, ce la mettiamo a posto comunque. Aspettiamo, se va entra qualcuno, lo dite. Se no, ripariamo un posto, c'è un bel culo. Vabbè, non tocco, ma c'è posto da questa radio, aiuto. Ma faccio la puntura, mamma. Ma è copiato tutto, no? È copiato tutto? Non lo so, no. Cazzo. Ho trovato la linea rabbal, non si è mai copiato già. Che cosa mi pompo? Io leggo un po', però non c'è la bacone. Che mi pare? Non me lo ricordo. A qualcuno è successo che gli è scoppiata la valvola in faccia? Ehi, a più di uno, io dico sempre state attenti, non mettete la faccia dentro quando state facendo qualche lavoro, soprattutto dove sono le valvole, che è molto pericoloso, scoppia la valvola, scende da già vivo. Ti va di biondo, ti va di biondo, non ti va di niente, non biondo. Pure abbiamo avuto un domenica a tipo un cazzo film di fantozzi. No, oh, wow, veramente. E come lo conosci tu Enzo? Sì, ci conosciamo perché prima c'era il bar via Tempio. Mi portavi le bombole? E anche, e perché tuttora non gliele porto. A casa sua? A casa sua, quando incomincia a essere ragazzi, lì a San Paolo, lì in via Besta. Infatti io sono venuto con me in macchina, perché mi si è rotta la moto, l'ho portata lì da Roma, perché stava scendendo, l'ho accompagnato e l'ho lasciato lì a San Paolo. Cappa, c'avevano il coso c'hanno lì. In via Besta, non sai dove, dietro, dove c'è la finanza lì? Sì, il circolo degli interisti. Li porto le bombole anche lì, li porto. Ma è chiuso adesso il circolo? Adesso è chiuso, però quando è il periodo, poi è a casa sua pure. Ah, ho capito, ho capito. È una brava persona. Ma, guarda, io lo conosco tanti anni, è una bravissima persona. Conosco la moglie, conosco tutti. Io li conosco tutti. A Valeria conosci? Sì. Lo so. Sì, lavorano con mia figlia, capito? C'ha tre figli. Sì. Leia, tre figli c'ha. No, già li ho visti crescere quei ragazzi. Perché io li seguo sempre, li ho visti crescere. Cavolo, adesso già sono grandetti, dai. E l'ho visto che erano, cioè, laggiù vicinati, laggiù vicinati. Bene, via. Dove a livello di barista qua c'è un bel esperienza, ma poi una vita che è così, cioè una vita che fa quel lavoro, hanno molta esperienza, è la verità. Ma non è te che ti vedo vita con l'arancia, bro, l'arancia ci pagami. Io lo pago, non c'è problema. Allora, se mi diceva tot, le davo tot, non è un problema per me. Già lo so già. Mamma mia, Samara, ma com'è che ha fatto figura stasera? Samara, ho questa musica alla gambara, mamma mia, ogni amma di gabbo. Guarda, c'è lei, c'è sempre musica. Quando vento, avevo ceretto, avvicinato. Oh, vedi su gatto po' di pianoforte. Per esempio prendere già sopra. A ultimo mi sono corrompito il coglione e ha ritrovato la televisione, va. Perché stasera ascoltando musica di chiesa. Cazzo, infatti, ma perché c'è, cioè, sei lì vicino alla San Paolo, cazzo, ma ormai ci vuole musica lì, non c'è anche buona musica di chiesa. E invece ti dico una cosa, in chi invece buona musica allegra? Soprattutto la moglie. Perché lui è messinese, a Messina deve essere che andava in chiesa, lui era chirichetto. Ehi, lo sai che io faccio un telecomando, faccio nel cellulare. Quando mi rompe nei ricattori, tu chi sei Simone a tutto volume la televisione, mi per il sudo. Ma hai spento? Lo so, io l'ho spento alla fin fine, e dai, ciao. Mica ce li ho tutti, mi. Cazzo, ti mando lo screenshot, vi raggio tutti i canti di dare comando in occhi. Io stavo prendendo un televisore, c'è stato il comando, cazzo. Lo ricevi? Almeno c'è il telecomando a portata di mano. Poi la colazione, andata a lei, piaciuta che la colazione ti ha fatto Sì, sì, ma poi lo conosco, lo so. Lui usava, quando c'era il bar, Zinca Caffè. Mi arrivava tutto il televisore. Acer, Intacci, Samsung, OCT, Sony, Panasonic. E vabbè, poi ci sono altre cose che non c'entrano niente. Senta, ma lo raccomando per il bello, vedrai. Il cellulare ce l'ho, quando mi rompo le balle che pone la televisione a tutto volume, figlio di venire su, dov'è? Antonio telecomando. Solo un attimo, caro, devo ascoltare un coso, un vocale. Vera gaccio, vera, è già teso il condizionatore della scuola guida. Antonio telecomando. Gianni, che abbiamo messo? Gianni Torbo 2000. Scappa, mi sta giù mandando una fotografia a me con tutti i canti di cose. Io faccio chi c'ha. E ci ho dato il comando. Io lo sto guardando, Oh, Antonio, che... Ma dove ce l'hai la scuola guida? Via Bellini? E via Zaffarino. Via Zaffarino, poi sali e sono in via Roma, capito? Mi vabbè, ho dato il comando dello Samsung. Fateci bene, fatete per la pedivella, Antonio. Antonio, se viene, fatete per la pedivella. Allora, c'è stato di cosa dentro. Antonio, telecomando. È legittimo, mi pare che sia. Ma dimmi che sta attento che appunto G, quando mi dà gli esami? All'anno che vieni dopo l'esame. Intanto adesso non conviene. Chiappa. E poi devi andare tranquillo, mi. Cazzo, meglio che si appunto, no, che di babbo, cazzo, ti porto la fine a corsa. Ma tu, quanti anni c'hai tu adesso? 36 anni. Io ho preso... Sono 24. Ne ho 46, quasi. 22 anni mi ha già fatto. Adesso come mezzo mancante, cioè. Già, con questa bicicletta le ci ovumo ne ha tanto. Oggi sai quanto ci ho messo a scendere qua? Mi pare roba di... Non più... Guarda, se sono stati, sì, 7 minuti anche troppo. Si sono occupati del corso Margherita e Savoglia, gatta a tutta vega. Antonio, bicicletta elettrica. Chi sa bomba, tanto molto ti dura la batteria. Adesso un pochettino vecchia la batteria, dammi dura già. Ma io sono sempre buon pende. Ah, sempre buon pende?